sono i due estremi che continuano a crescere. Il lusso nell'ultimo anno è cresciuto del 2%, un dato decisamente in controtendenza, ma va chiaramente interpretato. Chi compra un immobile di lusso non ha bisogno di un mutuo, questa è la nuda realtà. La nuda proprietà invece sta diventando una forma di investimento da un lato, per cui in qualche maniera mettere al riparo il proprio denaro su un qualcosa che costa meno e di cui magari avremo necessità fra 15-20 anni, diventa l'investimento classico per i figli, magari oggi piccoli. Dall'altro diventa invece un modo per chi la vive di avere una rendita, in un caso, oppure di anticipare in qualche maniera una sorta di eredità ai figli proprio per aiutarli a comprare un altro immobile e quindi dare loro una prima base. Tra l'altro, un altro dato che è emerso importante è che ormai il 27% dei mutui che sono concessi in Italia vengono concessi solo e soltanto in virtù della presenza di un garante. Il garante è, nella stragrande maggioranza dei casi, il genitore, che magari con la propria pensione oppure con una rendita causata dalla vendita della nuda proprietà, può essere un soggetto in qualche maniera che dà maggiore garanzia all'istituto di credito e permette la concessione del mutuo.